Mix 24 di Giovanni Minoli. Buongiorno, bentrovati. Tra poco, come ogni venerdì, vi racconteremo la storia dei nostri anni anche attraverso la musica. Oggi torniamo al 1986. In quell'anno intervistavo uno dei più popolari scrittori del Novecento, Alberto Moravia. Moravia, ma se non avesse fatto lo scrittore, cosa le sarebbe piaciuto fare nella vita? Il pittore. E perché? Perché preferisco la pittura alla letteratura. Senta, ma allora quella per la letteratura non è una vocazione irresistibile? No, è una vocazione assoluta. Volevo fare lo scrittore fin dall'età di 9 anni. E quando l'ha capito? In che occasione? L'ho capito quando raccontavo dei romanzi a me stesso, a alta voce. Senta, lei ha detto... A 9 anni? Sì. Lei ha detto, scrittori si può diventare, affabulatori si nasce. Questo è vero. E che cosa vuol dire? Vuol dire che lo scrittore può diventare scrittore attraverso sia talento, sia sensibilità, applicazione. Ma la capacità di raccontare, di narrare, è una cosa congenita proprio, si nasce così. E lei è un impulso che non ha niente a che fare con la letteratura. E lei si sente un affabulatore nato? Vabbè, altro che, le ho detto... Raccontavo romanzi a me stesso all'età di 9 anni. E di che tipo? Romanzi di che tipo? Ma chi lo sa, forse romanzi d'avventura, ma in tutti i casi parlavo con me stesso da solo e riprendevo il romanzo il giorno dopo, alla stessa ora. Moravia, fare lo scrittore rende ricchi? Ma può far guadagnare un po' di soldi per 60 anni. Insomma, lei però di libri ne ha venduti a centinaia di migliaia in tutto il mondo, si fanno film dei suoi libri, poi con la... Io ho cominciato a guadagnare un po', abbastanza per vivere a 45 anni. Insomma, quando è che uno è ricco, secondo lei? Quando è che uno è ricco? Sì. Ma lei quando si è considerato ricco? Bisogni. Lei quando si è considerato ricco? Se si considera ricco? No, io mi considero uno scrittore che... Sì, insomma, sono agiato. Senta, ma che il denaro, quanta importanza ha nella sua vita? Nessuna. Nessuna? No. E il potere? Neanche. Per me il denaro può far divertire, il potere è noioso. Scrittore, saggista, Moravia ha firmato alcuni dei capolavori della letteratura italiana, Gli indifferenti, La noia, Il disprezzo, La ciociara, che diventerà un film con la regia di Vittorio De Sica e l'interpretazione che valse l'Oscar a Sophia Loren. Ma il racconto degli anni Ottanta fra storia e musica avverrà tra poco insieme a Franco Schipani e Alessandra Fiori, che invece è già qui con Alessandra Cravetto per fare il punto su questo fine settimana. Thank God it's... Buongiorno Cravetto. Buongiorno Fiori. Senti, ma Moravia ha detto che potere e denaro non hanno nessuna importanza. Sì. Un pochino il denaro, un pochino può far divertire. Un il potere pochino. Però è noioso. Guarda, per carità, è Moravia, un intellettuale, però credo che siano in tanti a non essere d'accordo con lui. Uno su tutti, Trump. Ecco. Ricchissimo e con i soldi si è divertito un sacco. Ad esempio, si è comprato una barca enorme e ha detto che si è divertito molto di più a comprare quella barca lì rispetto ad esempio a un Van Gogh. Beh, strano, ma comunque, che barca era? Era uno yacht da 86 metri. Sobrio. Molto sobrio, che l'aveva rivenduto un altro multimiliardario, Khashoggi, e l'ha subito ribattezzato con il nome Trump Princess. Beh, stile Trump pieno. Stile sempre Trump sobrio. Però era motore. Ho capito. E allora? Allora la barca deve essere vera, perché la barca a motore fa tanto cafone. Oh, Turin, come sei chic. Allora, cafoni. Tu mi parli di cafoni. Sì. E allora, sull'argomento, c'è chi ne sa molto, molto più di me e anche di te, perché ho letto un libro. Un libro. E l'autore ci può dire tante cose su Trump come cafone e sui cafoni in generale. Il vero cafone, ciò che non dovremmo fare e facciamo tutti, di Vittorio Feltri e Massimiliano Parente, è un manuale al rovescio. Non il come comportarsi, ma come riconoscere il vero cafone moderno e comprendere attraverso di lui il cambiamento dei tempi, riconoscendo anche il cafone che in un modo o nell'altro alberga dentro ciascuno di noi. Oltre 160 casi di modernissima cafonaggine, dai cafoni con i SUV ai cafoni al mare, quelli sui social, i cafonalmente corretti e i culturalmente cafoni. Massimiliano Parente, Donald Trump è un cafone? Beh sì, lui è un cafonissimo proprio, nel senso che ha tutte le caratteristiche di... è un riccone di quelli smargiassi, poi ha questi capelli che non si capisce bene cosa abbia in testa, che sono molto molto cafoni. Ecco, ma in quale categoria di cafonaggine lo metteresti principalmente? È in tante, diciamo che è una figura che racchiude molti cafoni, è uno di quelli che non ti fa parlare, usa la ricchezza in maniera cafona, un po' come lo era anche per altri aspetti Berlusconi, però Berlusconi era... entrava più nel cafone da... anche lui chiudeva molti cafoni, cioè il cafone da barzelletta. Berlusconi è un cafonalmente corretto anche, ovvero? Cafonalmente corretto è la versione cafona del politicamente corretto, quello che ti corregge se tu dici una persona, un nero, ti dice di colore. È quello che continuamente ti corregge sull'ideologia del politicamente corretto. Renzi, invece, è l'esempio del cafone della supposta confidenza nominale, ovvero? È la supposta confidenza nominale quando ognuno nomina qualcuno che ha conosciuto da poco e immediatamente diventa, lo chiama per nome. Darsi un tono attraverso gli altri? Sì, però chiamandoli per nome, tipo, è come se, non so, Renzi va da Obama e dice: ho incontrato Barack, perché... La Merkel diventa Angela. La Merkel, certo, ho visto Angela ieri, insomma, è un modo di darsi una far capire agli altri che si ha confidenza, ma in realtà si sta semplicemente spacciando una confidenza, una supposta confidenza. Il cafone è quotidiano, in un modo o nell'altro a tutti può capitare di essere cafoni, a chi non è capitato appunto di riciclare un regalo. Ma tu, a tutti. Che cafone sei? Beh, io guarda, lì sono tantissimi tipi di cafone qui, perché per scriverlo insieme a Feltri ho dovuto anche pensare a cosa faccio io, alle cose che faccio io, e lì, ma ci sono anche piccole cose quotidiane che noi facciamo e sono un po' cafone, tipo quando uno si soffia il naso e guarda dentro, è davanti agli altri, poi ti casca l'occhio, è molto brutto. Oppure richiamare l'attenzione di qualcuno con cui si sta parlando punzecchiandolo con il dito. Secondo te cafone si nasce o si diventa? Poi in parte ci si nasce e in parte ci si diventa. Ci sono delle parti di noi che sono probabilmente inestirpabili, siamo proprio cafoni. Cioè la natura di per sé è un po' cafona. Poi culturalmente ci miglioriamo ma anche ci peggioriamo. Quindi è un mix fra le due cose. Cafone è bello a volte? Può esserlo? Può esserlo, nel senso che quando il cafone... molti trovano Fabrizio Corona bello. Sicuramente Fabrizio Corona è un gran cafone, cioè è proprio un emblema di cafonaggine, però c'è quella cafonaggine un po' che a Roma si dice un po' coatto, no? E quando è così uno può acquisire un fascino dell'essere cafone. Per esempio i tatuaggi, noi abbiamo messo anche i cafoni tatuati, e il tatuaggio di per sé è qualcosa che rende belli, però poi il tatuaggio cafone è quello lì che si scrive una frase in cinese, ma perché te la scrivi in cinese? Secondo te andare a una cena e regalare questo manuale del moderno cafone sarebbe cafone? Forse sì, dipende come la prende anche chi lo riceve, perché chi lo riceve potrebbe prendere: ah, mi stai dando del cafone? Esatto. Potrebbe essere cafone. Un'ultima domanda, Massimiliano: il cafone con l'età è destinato a peggiorare o a migliorare? Ma sicuramente a peggiorare, perché l'età porta di per sé tanti anche svantaggi fisici e anche un senso di fregarsene di più degli altri, e quindi si diventa più cafoni invecchiando. Il vero cafone di Vittorio Feltri e Massimiliano Parente, Mondadori. Scusa, quindi se fa tanto cafone chiamarsi per nome invece che Merkel, Angela, invece Berlusconi, Silvio, io e te che ci chiamiamo per cognome siamo scicchissime. Elegantissime, Cravetto, elegantissime. E poi un altro punto, si diventerà anche più cafoni con l'età, ma per fortuna si diventa anche più geniali, perché da uno studio di Science è venuto fuori che i colpi di genio possono arrivare anche dopo i 60 anni. E quindi perché mi guardi così? Quanti anni hai tu? Ecco, a parte che sei cafona e che lo sai benissimo. Che cosa mi vorresti dire, tra scusami? Ma tra donne si può chiedere, lo sai, dai. Ma no, non sono d'accordo. Comunque vorrei dirti che c'è speranza. Ecco, appunto, sei di nuovo cafona, cafonissima, super cafona. Super cafona, eccola qua. Allora, ti vorrei raccontare una storia che conferma proprio lo studio di Science che per avere delle buone idee non conta l'età, ma il talento e l'esperienza. Oh, se i giovani d'oggi valgono poco, gli anziani cosa ci hanno lasciato? Mauro Carpinelli, imprenditore edile, ha brevettato un mattone fatto con i materiali da demolizione di edifici esistenti. Dottor Carpinella, il suo mattone quindi potrebbe essere fatto anche con i materiali crollati dagli edifici delle zone terremotate? Sicuramente, perché noi siamo partiti a utilizzare detriti che sono dentro le discariche, opportunamente ovviamente trattati, tritati e miscelati con una miscela brevettata e compressi ad alta pressione su stampi di nostra fabbricazione, e quindi il materiale usato è inerte come quello delle macerie del terremoto. Si presume che, tra l'altro, essendo una costruzione, delle costruzioni abbastanza antiche, prevalentemente ci sia il cotto e la malta cementizia, e quindi è tutto materiale che va bene per essere riciclato con questo sistema di compressione senza cottura e quindi senza emissione di CO2. Ecco, quindi come viene fatto esattamente? Non viene cotto? No, viene miscelato, come dicevo, in base a ricerche nostre, con materiali ecosostenibili, anche un po' di cemento, quindi rafforza addirittura la composizione e la tenuta. Quindi è più resistente di un mattone normale, un mattone fatto da materiali dei crolli, ad esempio? Sì, perché gli viene aggiunto del cemento nella miscela per un 20%, e quindi quelle che erano macerie in cui è contenuto anche una parte di cemento, di malta cementizia, viene aggiunto un altro 20%. Senta, ma il suo mattone potrebbe essere costruito sul posto? Certamente, se ci sono le condizioni ambientali, nel senso di avere un sito adiacente che consente di trasportare lì le macerie del terremoto, demolite, ancor di più tritate e depurate, bonificate, nel senso di portare a riciclo di altri materiali come il ferro, il legno, il vetro, il rame, che il demolitore ricava dalla bonifica. Dopodiché a noi trasmette il materiale così come lo vogliamo noi, con le granulometrie indicate, e lo mettiamo in silos adiacenti e poi vengono immesse nella macchina che stampa e produce i mattoni. In fondo alla catena i mattoni possono essere murati senza impiego manuale, ma incollati. Come incollati? Uscendo da una filiera ad alta compressione, sì. Il mattone è liscio. Non ha le protuberanze che vengono fuori dal mattone cotto, sì. Per cui il muratore non ha bisogno di prendere mattone per mattone, spalmarlo con la cazzuola, con la malta, poi risistemarlo, riallinearlo. I nostri sono mattoni trafilati. Stiamo studiando con Primarie Industrie dei sigillanti come Mapei, anche lì una colla ecosostenibile. Senta, dottor Carpinella, ma in quanto tempo voi sareste in grado di allestire un cantiere nelle zone terremotate? Dunque, diciamo che sarebbe un cantiere prima di tutto sperimentale e quindi non posso essere molto preciso. Diciamo che in 3-4 mesi massimo noi siamo in grado di installare lì la filiera produttiva e di cominciare a fare mattoni. Dottor Carpinella, lei ha proposto a qualcuno del governo della Protezione Civile il suo progetto? Sì, in realtà ho parlato con la direzione della Protezione Civile, ma mi ha detto che loro si occupano appunto di emergenza e non di ricostruzione. Ho mandato una nota all'ufficio del commissario Errani, l'ho sottoposta a parlamentari delle zone colpite, perché ancora non sappiamo chi saranno le stazioni appaltanti. Certo. Quindi forse è un po' presto per parlare di ricostruzione. Ma senta, da questo punto di vista la cosa che rende più insicuro è il fatto che continua il sisma. Le faccio un'ultima domanda. Lei quanti anni ha? Io ho 73 anni. Quindi è vero che il colpo di genio può venire anche dopo i 70? Ma questo non sta a me dirlo. Più che colpo di genio, diciamo che è un'esperienza maturata in decenni in questo settore, che è rimasto sostanzialmente uguale a come si costruiva 50-60 anni fa, dopo la guerra. Noi facciamo un mattone, si chiama Carrara Block, con l'emblema della testa di Michelangelo, perché è un mattone di marmo di fatto, però che ricicla i detriti della zona e quindi può bonificare la zona e dare... Quindi un'idea buona non ha età? Direi proprio di no, perché se si guardano, io non mi voglio certo paragonare, però ci sono grandi personaggi che hanno maturato a fine vita progetti che sono diventati una ricchezza. Straordinari. Cravetto, però non abbiamo ancora parlato di Ilari, perché per esempio sai cosa mi ha colpito moltissimo? Il discorso, perché è arrivato molto molto tardi. Era molto commossa, molto addolorata, ma poi secondo te perché ci ha messo così tanto? Ma secondo me stava facendo altro, stava ad esempio forse facendo i biscotti. I biscotti? Sì, i biscotti. Non perché te... i biscotti, Cravetto? Ma non te la ricordi la famosissima intervista dei cookies? Cookies. In cui disse, nella mia vita sarei potuta rimanere a casa a fare i biscotti, ma ho deciso di realizzarmi nella mia professione. Ma sei cattivissima, lo sai che sei cattivissima te? Quindi non essendosi realizzata, ecco, adesso... sta cercando la ricetta giusta. Viva la mamma, viva le donne con i piedi per terra, le sorridenti Quindi sia per Ilari che per le mamme e per le smamme, chi vuole dedicarsi a fare i biscotti più buoni del mondo, c'è un sito che si chiama www.tribugolosa.com dove trovi? C'è una ricetta per fare i biscotti al cioccolato proprio pazzeschi, più buoni del mondo. Ora non sto a leggertela perché tanto so che con te un po' tempo perso, non li farai mai. Però... No, questa è un'altra cattiveria, io non ho capito perché io no. Perché io no? Perché tu sei tanto realizzata sul lavoro. Ah. I David di Donatella, che poi sono io. Donatella, buongiorno. Tu hai mai messo un tuo video su internet? Non lo so, forse una volta ho caricato un filmato che ho fatto in vacanza. E io infatti lo sapevo che eri una zozzona. Ci avrei scommesso tutti i pollici dei piedi. Ma che, Donatella? Ma no, Donatella, era il video di una partita di beach volley al mare. Sarà. Sarà. Vabbè, non ci credo. Comunque questo film parla proprio di tipi che pubblicano video strani. Il titolo, per favore. Oh, stai calmissima. Allora, vabbè. Si chiama Chi vuoi che sia e parla di questa coppia che cerca dei soldi per un progetto attraverso il crowdfunding. Il che? Il crowdfunding, quando fai l'elemosina su internet. Ma no, Donatella, si chiama crowdfunding. Non si tratta di elemosina, ma è il tentativo di reperire fondi per un progetto. È una cosa molto, molto popolare che funziona spesso. Ma è stessa cosa. Questi non hanno la minima idea del casino in cui si stanno infilando. Ma te per 250.000 euro lo faresti? Prova ad offrirmeli. Hai capito? Perché loro vogliono fare un figlio, ma non hanno i soldi. E allora una sera si ubriacano e decidono di fare sesso. E di mettere però il video su internet. E mentre con il crowdfunding nessuno gli dava un eurino, col video fanno un sacco di soldi. Hai capito? Beh, ho capito, è interessante, perché forse il film vuole anche far riflettere su quanto sia giusto o sbagliato svendere la propria intimità per poi potersi permettere di realizzare i propri sogni. Ma siccome sei filosofa oggi, però secondo me invece vuole dirci che succede un macello, perché siccome un sacco di gente li vede, loro non possono più stare sereni, perché tutti li riconoscono pure da vestiti, hai capito? Ho capito, va bene. Va bene, è un problema. Senta, ma vuole dirci il cast? No. Come? Adesso te lo dico. Allora, il film è di questo ragazzo che si chiama Edoardo Leo, e però questo cognome non ce l'ha lui. Ma no, Donatella, Edoardo è il nome e Leo è il cognome. E lei sicuramente l'avrà visto anche nei Perfetti Sconosciuti, Smetto Quando Voglio. Smetti? Giura? Ma no, è il titolo del film, Donatella. Lo so! Dai, poi c'è Anna Foglietta, Rocco Papaleo. Ma perché si chiamano tutti Leo dentro questo film? Vabbè, senta, Donatella, vale la pena vedere che vuoi che sia? Certo, perché è una parabola sì, sul mondo di internet e del delirio che si genera sulla rete a causa dell'assenza di una privacy. Ma scherzo! L'ho copiato su un giornale. Ah, io pensi, speravo di no, speravo fosse seria. Grazie, Donatella. Prego, comunque io adesso ti cerco su YouTube. E sulle note di Stevie Wonder, ecco a voi Franco Schipani. Buongiorno, Frankie. Ciao Ale. Ciao Ale. Frankie Wonder. Ciao Ale. Frankie Wonder. Part-time lover, che però è dell'85. Sì, ma va in classifica, dagli un attimo di tempo. Ragione, esce, ragione, va subito in classifica. Dagli qualche settimana e poi ci va in classifica e ci rimane un bel po', Alessandro. Comunque questo fatto dell'amante part-time, cos'è? Un suggerimento, un messaggio per la Cravetto? Cos'è? Per la Cravetto? Ah, sì, sì, io lo colgo. Ale, sono mesi che ci state provando, sono esausto. Con te, basta. Sono esausto, niente, sono non esausto. Cedi no, mai. Ma come? Io cedo, cioè insistete, vedete che a un certo punto io cedo, però vorrei sapere una cosa da voi due. Sì. Ecco, questo part-time lover, questo amante a tempo determinato, si dice un co-co-co, un co-co-co, progetto, sì. Ecco, ma sindacalmente come viene inquadrato? È nero. Veramente è nero. E ritorniamo all'amante nero. Ah no, era al nero, ho capito nero, scusate. No, era una cosa mia. È una cosa tua, molto tua. Senti, ma Franco, ma tu i biscotti li fai? Allora, dovete sapere che mia madre, che ha tante qualità, però tanta donna, cucinando, diciamo che è un po' approssimativa, però è buona, brava, alcune cose le sapeva. Ecco, invece, per puro caso, non so come ha fatto dei biscotti meravigliosi. Li ha fatti per sbaglio. Quindi io ho detto, mamma, per cortesia, ho detto, guarda, questi biscotti, rifalli sempre lo stesso modo. No, però si potrebbero migliorare. No, dico, hai trovato la ricetta perfetta. E così, che siano perpetui, e fa dei biscotti meravigliosi. I biscotti perpetui, però i biscotti. Io non li ho mai visti questi biscotti, comunque, Franco, nessuno li ha mai visti. Ma lo sai a Roma invece il biscotto? Il biscotto vuol dire, infatti quando parlavate di Hillary prima, esatto, detto, questa, sai, mi sto facendo i biscotti, come i biscotti? Bella, biscotti, un po' biscottata. Vuol che dire, vuol dire a Roma, che io sono di Torino? Allora, devi sapere che a sud di Torino non c'è niente, esatto. Vuol dire truffa, mi stai biscottando? Truffa. Cerchi di darmi il biscotto, ma allora è un biscotto, cioè in varie forme. Ma fa Trump che le ha fatte alla Clinton. Esatto, esatto. Franco, ma sei pronto ad andare nel 1986? Assolutamente sì. E allora, arrivederci Alessandra Cravetto. Ciao, ciao. Insisti Ale, insisti. A fare biscotti? Prima o poi cederai. E noi ci vediamo subito dopo la pubblicità con il 1986. Ciao. A più tardi.